24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'Europa che aspetta il nuovo presidente americano, l'ultimo sciopero generale in Grecia e poi il rapporto sull'innovazione nell'Unione Europea. In apertura dunque le elezioni americane. Fossero gli europei a votare, Barack Obama vincerebbe a mani basse. In un sondaggio UPI Gallup in 32 paesi, il 51% dei 26.000 intervistati ha votato, infatti, per il presidente uscente, appena il 18% per lo sfidante Mitt Romney. Una scelta emotiva che la Lib Dem britannica Sarah Ludford, vicepresidente della Commissione Europarlamentare per i rapporti con gli Stati Uniti, spiega affermando che la maggior parte degli europei di qualunque orientamento politico vede il presidente Obama sulla stessa lunghezza d'onda, almeno sui temi del welfare, della difesa delle categorie deboli, della regolamentazione dei mercati e della lotta al cambiamento climatico. Sarà ormai mattino in Europa quando si conoscerà il nome del nuovo inquilino della Casa Bianca. L'America però ha già cominciato a votare. Gigi Donelli. 9 stati, apertura alle 6 del mattino, quindi non dimentichiamolo, il voto americano tradizionalmente è in piena settimana, quindi non ci sono riposi collegati. 6 stati evidentemente a est, quando in Italia scocca il mezzogiorno, negli Stati Uniti dell'est sono le 6 del mattino, i primi seggi si sono messi al lavoro. Quindi la macchina, la grande macchina è partita con naturalmente la miriade dettagli, complessità, attenzione. Già c'è una fibrillazione per quanto riguarda l'Ohio, ma anche l'Iowa e naturalmente la Florida, che non dimentichiamolo, è sempre al centro di tutti i sospetti. Una macchina elettorale estremamente complessa, su vari fusi orari, con una complessità digitale organizzativa che appunto è stata più volte sollecitata, è stata anche al centro di molti film. Diciamo che ci ritroviamo ancora una volta, la Florida ovviamente è quello tra gli stati incerti con il pacchetto più significativo. Lo ricordo, prima della Florida però c'è prevista la chiusura dell'Ohio, quindi stato che viene ritenuto passaggio obbligato, soprattutto se vincerà Obama quello stato. Questa notte la chiusura dei poll nell'Ohio è alle 3 ora italiana. Ecco, da lì si comincerà davvero a capire. Nei palazzi delle istituzioni europee c'è però quasi indifferenza per il risultato delle urne americane. Analisti come Daniel Gross, direttore del CEPS, o Nicholas Veron, cofondatore del think tank Bruegel, sono concordi nel dire che la vittoria dell'uno o dell'altro avrà pochissima influenza per l'Europa e per la sua capacità di uscire dalla crisi. Semmai, osservano, quello che conta sono le maggioranze che si formeranno al Congresso e al Senato. Così, invece, all'interno dei palazzi della politica italiana si attende il voto americano. Il punto di Stefano Folli. È un paradosso naturalmente, ma se si votasse anche in Italia per eleggere il presidente degli Stati Uniti, la vittoria di Obama sarebbe schiacciante. Non solo per la rete di relazioni che l'attuale presidente ha intessuto con gli esponenti delle nostre istituzioni, da Napolitano a Mario Monti, ma perché esiste la fondata convinzione che nella crisi dell'euro Obama è molto più vicino al nostro punto di vista, anche rispetto alla severità della Germania, di quanto non sarebbe mai lo sfidante repubblicano. Detto questo, è vero che nessuno dei due, Obama e Romney, ha manifestato nel corso della campagna una vera attenzione verso l'Europa e nessuno dei due ha indicato all'Occidente una convincente via d'uscita dai suoi problemi economici e finanziari. Chiunque vinca stasera, e probabilmente sarà Obama, l'Italia non potrà farsi molte illusioni. Per uscire dal famoso tunnel ci vuole ancora molta pazienza e tenacia. E piazze finanziarie caute in attesa del voto americano. Le borse europee hanno chiuso in territorio positivo, una giornata vissuta all'insegna della volatilità in attesa dei risultati delle elezioni americane. In Europa i riflettori restano puntati sulla Grecia, dove domani il Parlamento voterà il piano di austerità necessario a sbloccare la nuova tranche di aiuti. Milano ha terminato sui massimi di seduta, segnando un guadagno dello 0,90% grazie soprattutto al recupero delle banche. Banco Popolare, MPS, Unicredit e BPM hanno guadagnato il 2% circa. La migliore sul FTSE MIB è stata Fiat, balzata del 3% dopo le recenti perdite. A trenare il titolo sono state le ipotesi secondo cui Volkswagen potrebbe utilizzare i 2,5 miliardi raccolti sul mercato obbligazionario per possibili acquisizioni, tra cui è tornato a circolare il nome di Alfa Romeo. Per contro, la peggiore sul paniere principale è stata Tenaris, meno 1,3%, penalizzata dal taglio del giudizio da parte di Goldman Sachs. Nel resto del listino, Beghelli ha perso oltre il 7%, la società ha chiuso i 9 mesi con una perdita di 11,7 milioni di euro e ha annunciato che non rispetterà le scadenze del debito previste per fine anno. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per la cronaca europea, riflettori puntati sulla Grecia, paralizzata da un nuovo sciopero generale. Le piazze di Atene sono brulicanti, migliaia anche oggi per la quarta volta dall'inizio dell'anno hanno incrociato le braccia per dire no alle nuove misure di austerità, altri tagli chiesti dall'Europa per saldare i conti e versare nelle vuote casse dello Stato la nuova tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo. Uno sciopero di 48 ore che di fatto interessa tutte le categorie: scuola, sanità, trasporti, banche, ministeri, amministrazioni locali, farmacie, avvocati, magistrati, giornalisti. Per 3 ore, dalle 10 alle 13, si sono fermati anche i controllori di volo degli aeroporti, isolando i cieli del paese. E nelle stesse ore, alle 11 del mattino, è cominciato l'iter parlamentare che sancirà i nuovi tagli di bilancio per 13 miliardi e mezzo. Il dibattito proseguirà in aula domani mattina, con il voto atteso nella nottata tra mercoledì e giovedì. Domenica poi ci sarà da approvare il bilancio con un voto tutt'altro che scontato. In un paese sempre più alla disperazione, per i troppi crediti della sanità greca, da 2 giorni le multinazionali non forniscono più neppure i farmaci anticancro agli ospedali pubblici. I malati possono comprarseli in farmacia, ma trovare i soldi per molti non è facile. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Terreni spacciati per campi agricoli ma ricoperti invece da foreste. Si concentrano soprattutto nello sviluppo rurale i principali errori nelle finanze europee stimati in 5,2 miliardi dalla Corte dei Conti. Politiche regionali, energia e trasporti e poi ancora ricerca e gli altri settori finiti nel mirino della magistratura contabile. Il tasso globale di errore nelle spese è inferiore al 4%, precisano però dalla Commissione europea. Per fermare le stragi di migranti fa appello all'Unione Europea il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. Dopo il soccorso agli ultimi 107 africani in difficoltà, il primo cittadino dell'isola sollecita interventi ed aiuti dalle istituzioni comunitarie per fermare, dice, questo vergognoso ed anacronistico eccidio. L'innovazione, parola chiave per la crescita economica e lo sviluppo. Un report della Commissione europea analizza 190 regioni del vecchio continente e ancora una volta il quadro è quello di un nord virtuoso e di un sud in difficoltà. Angel Konstantinov Beremlinski dell'ufficio di Roma della Commissione europea. Emerge che i paesi con maggiori, con più grande numero di regioni che rientrano nella prima categoria, ovvero quelli dei innovation leaders cosiddetti, sono la Svezia, la Danimarca, la Germania e la Finlandia. Quei paesi, dell'Europa centrale e l'Europa meridionale rientrano, in un grande gruppo in cui sono i paesi followers e i paesi moderata innovazione. L'Italia, secondo l'ultimo Innovation Scoreboard, è un paese di moderata innovazione. In effetti 12 regioni italiane sono regioni con moderato livello di innovazione. 7 invece sono le regioni nella seconda fascia, ovvero sono le migliori in Italia, sono regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto, la provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna e Lazio. Queste sono le regioni che rientrano nella fascia per l'Italia più elevata. Non ci sono invece regioni leaders come invece in Germania, in Finlandia, Danimarca e la Svezia. Due sono le regioni invece modesti, ritenuti innovatori modesti, sono il Molise e la Calabria. Per quanto riguarda i peggiori invece ci sono i paesi dell'est, soprattutto la Bulgaria e Romania, che rimangono ancora regioni con un basso livello di innovazione. È saltata la nomina formale del lussemburghese Yves Mersch nel board della BCE, lo annuncia il Consiglio europeo, specificando che la questione sarà in agenda in un prossimo incontro. È stata la Spagna il solo paese a porre il voto, forse perché, stando ad alcune fonti comunitarie, avrebbe un proprio candidato, ma non femminile, come invece chiesto dall'Europarlamento. E parliamo di tecnologia. L'Unione Europea prepara la strada all'avvento delle telecomunicazioni mobili di quarta generazione. La 3G dovrà fare spazio alla 4G entro il 30 giugno 2014, al più tardi. Lo ha deciso la Commissione Europea. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.